Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Stefano Gariglio di Double Line, che distribuisce il film Cure di Kiyoshi Kurosawa al cinema da giovedì 3 aprile 2025. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua. Presentiamo questo film, di cosa parla? Penso che si possa definire il suo film più famoso e più celebrato, perché è il film che ha imposto Kiyoshi Kurosawa all'attenzione della critica internazionale e che ha aperto appunto la sua strada a diversi premi in giro per il mondo. Il film è sostanzialmente un thriller psicologico, parla di un poliziotto di Tokyo che sta indagando su una serie di delitti, e questi delitti sono piuttosto bizzarri perché vengono compiuti da persone diverse che non hanno relazioni tra di loro, non si conoscono e quindi tra di loro non c'è nessuna relazione. C'è però questo minimo comune denominatore rappresentato da una ferita a forma di X. Questo ispettore indaga, brancola un po' nel buio all'inizio, ma poi a un certo punto viene a contatto con un ragazzo che si aggira apparentemente nella città già da tempo, privo di memoria. Cosa hai apprezzato di questo lavoro? A me capitò di vederlo, credo, sì, ormai più di 20 anni fa, e fu un film che mi colpì molto, anche perché mi introdusse proprio all'opera di Kiyoshi Kurosawa, che all'epoca, parlo dei primissimi anni 2000, era di fatto sconosciuto da noi, insomma, in Italia, ma poi poco per volta il suo nome ha iniziato a riecheggiare nei più importanti festival cinematografici, Cannes, Venezia in primis, Berlino, eccetera. È un film con una regia molto personale, era un film fortemente richiesto dalla platea cinefila, perché è rimasto di fatto inedito da noi per 28 anni, e avendo saputo che il film era stato restaurato in 4K circa un anno fa, ci è sembrato il momento giusto per farlo conoscere anche in Italia, ecco, a una platea più ampia. All'epoca che diffusione ebbe a livello globale? Il film fu presentato in anteprima al Festival di Rotterdam, se non mi sbaglio, nel 97. Circuitò poi in altri festival cinematografici, sia in Oriente che in Occidente, però si può dire che fu conosciuto in Occidente principalmente attraverso il mercato dei DVD di importazione. E di fatto il film, posso azzardare nel dire che di fatto anche negli anni successivi abbia continuato il suo percorso attraverso il mercato dei DVD e poi dei Blu-ray. È stato poi, ecco, distribuito in alcuni paesi, Francia, Spagna, Inghilterra, in America chiaramente, anche al cinema, ma da noi, come dicevo prima, lo si è visto soltanto in poche retrospettive cinematografiche, ecco, tra cui la corposa retrospettiva del 2007 che il Museo del Cinema di Torino dedicò. Fu in quell'occasione che personalmente ebbi la fortuna di incontrare di persona questo regista. Complessivamente la sua filmografia come si caratterizza? Attraverso quale stile? La sua è una filmografia piuttosto vasta, innanzitutto, perché Kiyoshi Kurosawa ha iniziato a lavorare già giovanissimo, quando era ventenne o poco più, e di fatto non ha mai smesso di fare film. Basti dire che nell'anno scorso ha realizzato ben 2 lungometraggi e un mediometraggio, quindi un regista molto prolifico. È, come accennavo prima, un regista che ha uno stile di regia personale piuttosto riconoscibile, uno stile fatto di un ampio uso del piano sequenza, spesso con riprese a distanza, dove quindi i personaggi sono ripresi mentre parlano o camminano a distanza in campo lungo. C'è un poi un particolare uso della musica, molto minimale, perché Kurosawa ha detto più volte di preferire il suono ambientale alla musica propriamente detta. Ci sono poi una serie di figure che ricorrono nei suoi film e che caratterizzano appunto in modo particolare il suo stile. Mi limito a citare una figura particolare e che in Cure è molto presente, ed è quella del movimento verticale, spesso applicato a un essere umano. Quindi sostanzialmente ci sono persone che cadono a terra. E Kurosawa ha detto di ricorrere spesso a questa figura perché vuole in qualche modo rappresentare l'inquietudine dell'epoca moderna. Il fatto che persone o anche oggetti improvvisamente cadano a terra, a volte anche senza un motivo preciso, ecco, questo rimanda un po' all'inquietudine appunto che serpeggia in tutti noi nell'epoca moderna. Che distribuzione sarà? Noi facciamo distribuzione dal 2019, quindi possiamo dire di essere relativamente nuovi nel mercato, anche perché poi chiaramente essendoci stato il periodo della pandemia tutto si è fermato per diversi mesi. Questo è il nono film che portiamo nelle sale. Noi in questi anni abbiamo cercato di fidelizzarci, si può dire così, un certo numero di sale, e sono principalmente sale d'essai che privilegiano film d'autore a quelli commerciali. Posso però dire che l'anno scorso abbiamo distribuito un altro film giapponese che era Inuo. In quel caso si trattava di un film d'animazione giapponese e grazie a quel titolo abbiamo avuto accesso anche a sale che prediligono un prodotto più commerciale, e sono molto contento che questo sia avvenuto anche con questo nuovo film, Cure. Infatti il circuito The Space subito ci ha dato fiducia e ha preso il film per un buon numero di sale, e io ritengo che questa sia una cosa meritoria, il fatto di mostrare un regista comunque de sé, qual è Kiyoshi Kurosawa, anche in un circuito insomma che è principalmente dedicato a prodotti, ecco, più mainstream, cioè dare la possibilità a una platea diversa, ecco, di conoscere la sua opera. Io penso sia importante. Diamo i riferimenti web per sapere dove andare a vederlo? Il nostro sito è www.doubleline.it, però in aggiornamento delle sale la trovate sui nostri due canali social, che sono Facebook e Instagram. Il film Cure di Kiyoshi Kurosawa al cinema da giovedì 3 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Gargiulo di Double Line che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima, grazie a voi, arrivederci. Con Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione per presentare il film Puan, il professore, di Maria Alcé e Benjamin Neistat al cinema da giovedì 27 marzo 2025. Ben trovata! Salve a tutti gli ascoltatori! Raccontiamo brevemente di cosa parla questo film. È stata definita dagli stessi registi una commedia esistenziale o piuttosto una commedia filosofica. Racconto l'incipit del film. Ci incontriamo alla Puan, che è la celebre e famosa università di Buenos Aires, concretamente la facoltà di filosofia. Il grande cattedratico, appunto, della cattedra di filosofia, all'improvviso muore. E da lì c'è chiaramente il suo successore, che sarebbe Marcello, pronto a prendere questo posto. Quello che Marcello, che è un personaggio goffo, un po' maldestro, professore anche molto insicuro, si incontra di un giorno all'altro che arriva dalla Germania un rivale, pronto a lottare per questo posto che lascia vuoto appunto il grande cattedratico. Da lì, tra Marcello e Raphael, interpretati dal grande Marcello Subbiotto e da Leonardo Sbaraglia, entrambi premiati in diversi festival internazionali proprio per il lavoro che hanno svolto nel film, iniziano una guerra tra di loro, con anche la complicità dei personaggi che li circondano entrambi, per vedere chi prenderà questo posto. E parallelamente vediamo attraverso, no, questa rivalità, questa lotta per la cattedra, due modi di intendere sicuramente la vita, la filosofia, di intendere anche l'approccio al sapere, molto molto molto diversi. Di questi due registi cosa sappiamo? Maria Alce e Benjamin Neustadt, anche se sono molto giovani, come ben sapete in cinematografia diverse da quella magari italiana o europea in generale, sicuramente i tanti registi trovano sin dai suoi esordi molta più spazio per sviluppare i suoi lavori. Maria Alce viene dal campo dell'interpretazione, lei era presente nel film La Niña Santa ad esempio, e allora il primo film che loro fanno insieme si chiamava Famiglia Sumergida, che è un film che ha girato in diversi festival. Sicuramente Puan è di questo tandem il primo film che internazionalmente le ha fatto un po' decollare in questo senso, anche in circuiti commerciali, considerando poi che Puan appunto il film è stato presentato in prima mondiale in un festival di classe A come San Sebastián, dove hanno vinto il premio alla sceneggiatura e appunto, come dicevo, il premio a entrambi attori. Cosa vi ha convinto di questo film? I nostri film sono film ricercati, cerchiamo sempre film che non siano fine a se stessi, no? Noi intendiamo il cinema come un medium, come uno strumento anche per ragionare su altre tematiche, per dialogare con altre arti. In questo caso questo film, che tra l'altro è una coproduzione italo-argentina con anche altri paesi come il Brasile, permette, diciamo, attraverso un linguaggio che ci avvicina al genere della commedia tantissimo, questa commedia molto ironica che gli argentini sanno incontrare, controllano in un modo eccezionale, ci avvicina a tematiche che sono molto importanti per il nostro tempo. Diceva l'attore Subiotto poco fa che loro questo film l'hanno girato 2 anni fa e pian piano e man mano va avanti il tempo si rendono conto di quanto questo film ha quasi previsto dei disastri che si stanno avverando nel nostro contesto sociopolitico attuale. Quindi quello che convince secondo me molto del film è anche che è un film che incita attraverso appunto la commedia a riflettere, a quasi ribellarsi su tante realtà terribili e orrende che stiamo vivendo. In questo caso il fuoco è sull'istruzione, no? Su quello che sta succedendo anche in Italia all'università, con il caso Benin, eccetera. E che spazio diamo veramente all'educazione pubblica? Che distribuzione sarà? Nel caso di Puan ci stiamo sorprendendo perché in questo momento c'è un intasamento incredibile, gli escono anche 14-15 film a settimana, e forse per queste qualità che ha proprio il film, per questa maestria, no? Utilizzando il genere della commedia per parlare di temi molto molto importanti, ha fatto che anche tra gli esercenti sia abbastanza ben accolto il film. Quindi abbiamo in questa prima settimana quasi 20 di sale in tutta l'Italia, e in settimana prossima si aggiungeranno qualche città che direttamente andavano dal 3 aprile, come può essere Firenze, Gorizia, eccetera. Ci dai i riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Noi abbiamo anche un sito direttamente del film che si chiama puanalcinema.it, ovviamente. Il film Puan, il professore, di Maria Alce e Benjamin Neustadt, al cinema da giovedì 27 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento ad Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione. Alla prossima! Grazie, grazie a tutti voi, andate al cinema! Con Luca Notarangelo di N Film, che distribuisce il documentario Non sarò mai vegano di Thomas Pickering, al cinema da domenica 30 marzo 2025. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Federico. Che film è questo? È un docufilm che smonta i miti diffusi sul veganismo. E è una riflessione critica sulla nostra alimentazione, ma non solo, perché poi tratta più temi, dagli allevamenti intensivi al cambiamento climatico. Non è un film che vuole imporre il veganesimo, è un film che invita a una riflessione, che deve essere una riflessione critica, sul nostro rapporto con il cibo e appunto anche sull'ambiente, perché ti fa capire quanto sono collegate le due cose nella nostra società attuale. Ed impatto che questo ha poi, quindi è un bel film, è un film che ci è piaciuto subito, che abbiamo deciso di portare in Italia proprio perché aiuta a creare una riflessione critica e quindi è giusto parlarne, è giusto discuterne. Nel film vediamo che in alcuni paesi il consumo di carne è in aumento, ma è anche vero che il veganesimo è sempre più diffuso. Sì, noi distribuiamo questo film in collaborazione con Assovegan, che è l'associazione dei vegani italiani, e con Vegan OK, che certifica che un prodotto è vegano in Europa. E grazie a loro abbiamo conosciuto un sacco di persone vegane, ci siamo confrontati, ne abbiamo parlato, e sì, è un fenomeno in aumento. Sono tutte persone che si sono già fatte delle domande e si sono date delle risposte, hanno scelto di intraprendere questa dieta alimentare, e lo si vede anche nel film. Poi è sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ne vuole parlare. Nel film c'è un lungo filone legato allo sport. Se guardiamo gli atleti più forti nel loro campo, dal tennis all'automobilismo al calcio, sono quasi tutti vegani. Sai, quando si parla di veganismo ci sono sempre delle domande: ma come fai con le proteine, come fai a fare sport, come trovi l'energia? Ecco, il film risponde a tantissime domande che sono banali per una persona vegana, ma non sono banali per una persona onnivora. Quindi è veramente interessante. Pensa che tutto il film parte da una semplice domanda che si fa al regista, che è: mamma, perché mi hai insegnato una dieta vegetariana prima e poi vegana? La mia educazione è stata una truffa a base vegetale o no? E da qui parte appunto tutto il racconto del film. Tutte le domande che ci sono all'interno del film trovano una risposta. Due sono i focus, secondo me, fondamentali che emergono dal film. Uno riguarda la salute e l'altro l'impatto ambientale. Sì, esatto, perché come ti dicevo si parte dalla dieta alimentare e poi quanto impatta la dieta onnivora sull'ambiente. È un dato di fatto che gli allevamenti intensivi inquinano più delle aziende fossili e si vede l'impatto che hanno sull'ambiente proprio certi tipi di allevamenti. Siamo sempre di più, abbiamo sempre meno terreno, stiamo andando incontro a una cosa che prima o poi dovremo affrontare. E il film fa questo, ti fa vedere quanto incidono certe scelte anche sull'ambiente e quindi sul nostro futuro. Di Thomas Pickering cos'altro sappiamo? Thomas Pickering è un giovane regista e questo è il suo primo lungometraggio documentario, e ha una casa di produzione col fratello, la Tent Production. Questo è il loro primo documentario, è uscito con il titolo Never Go Vegan in Inghilterra, è stato molto apprezzato, è uscito appunto nelle sale, poi l'hanno venduto ad Amazon Prime UK. Noi l'abbiamo intercettato così, ci siamo confrontati con lui e poi abbiamo deciso appunto di prenderlo, perché secondo noi era un prodotto che anche gli italiani dovevano poter vedere, insomma. Che distribuzione sarà? Vorremmo andare in tutta Italia, ovviamente. Sai, certi film non sono facilissimi da distribuire perché non tutte le città sono recettive, non tutte le sale magari lo sono e soprattutto hanno spazio. Però stiamo ricevendo tantissime richieste da tutta Italia per poter vedere il film, quindi io credo che ci sia una buona possibilità che arrivi dappertutto e che quindi ci possa essere una distribuzione capillare in tutto il territorio. I riferimenti web per sapere dove vederlo? Il nostro sito nfilm.it, al calendario aggiornato di tutte le proiezioni, i nostri canali social, quindi Instagram e Facebook, sempre nfilm.it. Il documentario Non sarò mai vegano di Thomas Pickering al cinema da domenica 30 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento a Luca Notarangelo di Nfilm che lo distribuisce. Alla prossima! Grazie, ciao! Con Valerio Ferrara, regista del film Il Complottista, in tour da mercoledì 2 aprile 2025, ben trovato. Ciao, ciao, eccomi, sono qua. Cos'è questo lavoro? È un film d'esordio, io ho 28 anni, è arrivato dopo molti anni di ricerca nel mondo dei complottisti. Io stesso in parte ci sono mezzo finito e mezzo, diciamo così, gioco di parole, perché viene da un cortometraggio che ho fatto, scritto e ideato tra il 2020 e il 2021, quindi anni molto complottistici. Poi questo cortometraggio ha avuto una vita molto fortunata perché vinse un premio a Cannes, ha girato un po' ovunque, ora è anche su RaiPlay, e nel frattempo ci siamo accorti che era un mondo inesplorato, quello dei complottisti, soprattutto in Italia, cioè non esiste un film, niente che si chiami Il Complottista e nessun film che parli proprio dell'uomo, della persona, dell'essere umano complottista, soprattutto contemporaneo, e quindi abbiamo detto vabbè, facciamoci un bel film, e ora esce nei cinema di tutta Italia. Come ti sei informato? Che mondo hai esplorato? Mondo trasversale, nel senso sia un mondo di incontri di veri complottisti, che poi è un po' generico, cioè chiunque di noi può essere un complottista, quindi incontri di persone reali che mi hanno parlato di loro teorie proprie e anche molto interessanti, alcune sono addirittura finite dentro al film, ma anche esperienze personali di ricerca nel web, io che mi sono perso appunto in un periodo molto particolare, quello del 2020, a darmi delle risposte a quello che avveniva intorno a me, e quindi mi sono trovato in prima persona, non dico a complottare, ma comunque penso che sia stato un po' un complottismo collettivo quello che succede in quegli anni, che poi mi sono detto, ma guarda te, finirà la pandemia, finiranno i complotti. Invece il mondo è esploso, c'è cioè di tutto e di più, e non se ne esce, nel senso ogni volta ne esce una, e io pure che appunto ci ho fatto un film, ci sono dentro da anni, perché comunque mi sono poi informato, ho fatto incontri, ho incontrato anche giornalisti, esperti veri, reali di complottismo, quindi diciamo tanta roba, e il timore era sempre che prima o poi finisse quest'ondata di complottismo, invece continua sempre più forte. Per quello che hai capito, cosa c'è alla base? Perché questo fiorire di complottismo? Ci sono tanti fattori sicuramente, e questa esplosione è legata al rapporto molto più intenso che c'è stato negli ultimi anni, dal mio punto di vista ovviamente dopo queste esperienze, con l'internet, cioè con tutto il mondo social, digitale, che fino a qualche anno fa era un po' più ridotto, comunque la gente si informava meno su questi social e quindi passava di più tutto dall'informazione generalista televisiva, e era un po' più orientata, però era quella. Invece sul web puoi trovare di tutto, c'è anche chi manipola le informazioni, l'abbiamo visto anche con campagne elettorali e in tanti modi, ecco. Quindi il passaggio poi web e vita reale, quindi la pandemia in questo caso specifico, ma poi anche tanti altri eventi, a me personalmente ha suscitato molta curiosità, e poi mi sono accorto proprio che era uno sfociare anche di proteste in piazza, che era una cosa che in passato non si era forse quasi mai vista, non vorrei esagerare, però a me questo aspetto mi ha molto incuriosito. Io stesso mi sono ritrovato, la prima volta sono uscito dopo il primo lockdown in Piazza del Popolo, con le biciclette, no, che si poteva fare sport all'aperto per uscire, tutti erano entrati sportivi all'improvviso all'epoca, e io quindi uscivo anch'io a fare il mio famoso sport in bicicletta, e a Piazza del Popolo sono finito in mezzo alla manifestazione dei gilet arancioni, e era molto interessante, cioè ho curiosato e mi sono reso conto che la cosa interessante dell'essere complottisti è che tutti possiamo esserlo, cioè a quella manifestazione c'erano qualsiasi tipo di slogan in piazza e zero partiti schierati, diciamo così, c'era di tutto, ecco, quindi questo mi ha incuriosito tanto, e quindi il complottista, almeno per come mi sono approcciato io in questo film, non ha un partito e può essere qualsiasi tipo di persona. Ovviamente ci sono degli orientamenti che se ne approfittano e ne fanno propaganda, quindi c'è di tutto, ecco. Come lo hai tradotto cinematograficamente? Cinematograficamente ho delle mie reference, che sicuramente è il cinema con cui sono cresciuto, che è la commedia all'italiana, quindi con questi personaggi mattatori è un po' mostruoso, cioè i mostri, diciamo, e per me il complottista da un certo punto di vista può corrispondere ai mostri di Norisi, a uno di quei personaggi della commedia all'italiana, quindi un Alberto Sordi del Vigile, così come del Vedovo, oppure appunto il Gassman del Sorpasso, cioè personaggi comunque di base che vengono visti come negativi dalla società o per come si muovono, per quello che pensano in questo caso specifico, ma che poi in realtà hanno una grande umanità, quindi l'approccio è stato quello umanistico, che in questo caso è il complottista, quindi tanta empatia nei confronti del nostro personaggio protagonista nel film, punto molto a creare questa sorta di sintonia con lui, con la sua dinamica relazionale umana di quartiere, perché poi è un film di quartiere, quindi fatto di tante persone, questo è molto importante. Com'è stato il lavoro con gli interpreti? Molto interessante, perché è un film corale, ci sono tantissimi personaggi e molti sono non attori anche, perché appunto essendo così corale ed essendo anche un film piccolo, nel senso che un'opera prima a basso budget, non voglio dire indipendente, ma in teoria lo è, nel senso che comunque è girata a basso budget e ci siamo messi tutti in campo in prima persona, siamo esordienti io, ma come tutti gli altri reparti sono tutti giovanissimi, e quindi molti degli attori sono stati proprio presi per la strada, appunto nei quartieri dove abbiamo girato, cioè il Quadraro, Torpignattara. Non nascondo che un attore l'ho proprio preso sotto casa mia, perché cercavo questa figura un po' particolare, l'ho adocchiato, l'ho iniziato a seguire, ho detto, oh, buono, tu devi a fare un provino subito. È stato molto un lavoro importante, soprattutto a livello empatico, perché il protagonista, che è Fabrizio Rongione, lui è un attore che viene dal mondo del dramma, ha fatto prendere quasi tutti i film dei Dardenne, e è la sua prima commedia, quindi era un po' una scelta forte, che però sia lui, perché poi mi ha detto che a teatro in realtà fa molti pezzi da comico, e a Bruxelles ci prende in giro noi italiani, perché lui è italo-belga, quindi a Bruxelles fa questi spettacoli a teatro dove va fortissimo e appunto ci prende un po' in giro noi italiani. Però al cinema non ha mai fatto un ruolo da protagonista in una commedia, e quindi è stata la sua prima prova, e devo dire che questo aspetto di lui, che è un po' un everyday man, un uomo come chiunque può essere di noi, nel senso una persona comune, è aiutato tantissimo sul piano emotivo e umano del complottista, che è un po' contro il cliché del complottista, perché tu pensi che il complottista è un pazzo che si mette la carta stagnola intorno alla testa e dà le capocciate di fianco al frigorifero, che ne so, cose strane comunque. Invece il paradosso forse che abbiamo provato a creare nel film è proprio che il complottista sei tu, sono io, tuo cugino, chiunque, in qualsiasi ambiente appunto di vita sociale, di quartiere, appunto ritorno sul quartiere perché è molto importante per me. Che tipo di uscita sarà? Abbiamo scelto un'uscita a tour in tutta Italia, proveremo a portarlo in più città possibile, in più cinema, quindi invitate, scriveteci, proponeteci perché noi siamo pronti ad accogliere tutte le proposte che ci arriveranno, e questo perché appunto mi sono messo in gioco io in prima persona da giovane regista per voler incontrare le persone e creare anche dei dibattiti dopo il film dove chiunque possa dire il proprio punto di vista sul tema, che è quello appunto del complottismo, che reputo tuttora molto attuale e sul quale si possono fare grandi dibattiti anche molto curiosi, e quindi un lavoro importante di scambio. Io do il film, loro danno i loro complotti. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Noi abbiamo creato una pagina social che si chiama Il Complottista, dove potete trovare tutte le informazioni del tour, che abbiamo iniziato a diffondere teorie false per vedere come andavano, e abbiamo fatto questo esperimento che è durato un mese e abbiamo raggiunto 1 milione di persone e 4.000 follower sui due canali TikTok e Instagram, che sono numeri importanti. Ho scoperto anche tutti questi termini dei social che a me non mi appartengono, però questi numeri li abbiamo raggiunti in organico, per chi sa queste cose è un buon risultato, ecco, senza metterci una lira. E ora stiamo portando avanti questa pagina, ovviamente promuoverà il film, le tappe del tour e ovviamente tutto il lavoro che faremo nelle singole città, anche gli interventi delle persone, perché saremo lì anche a riprendere degli interventi, comunque saremo in sala. Sul sito www.ilcomplottista.film. Il film Il Complottista in tour da mercoledì 2 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Valerio Ferrara. Alla prossima! Ciao, ciao a tutti e a tutte, ciao! Con Rolando Colla, regista del film Charlotte, una di noi, al cinema da venerdì 28 marzo 2025. Ben trovato. Grazie, buongiorno. Come presenteresti il tuo lavoro? Questo è un film che parla di una donna 42enne che ha un disagio mentale e noi entriamo nella sua percezione per tutto il film. La seguiamo e forse intuitivamente, direi, riusciamo a capire qualcosa del suo personaggio, del suo disagio, della difficoltà di vivere con questo disagio, ma anche di trovare poi una certa autonomia. Come nasce tutto? Beh, nasce dal bisogno di raccontare questa storia e di mettere al centro una persona con questo disagio, perché in fondo, per quanto io sappia, un film che veramente cerca di entrare nella percezione di una come Charlotte non esiste, e io ero interessato a raccontarlo in questo modo, per aprire un po' il loro mondo, per dare la possibilità attraverso il cinema di mondo, in questo mondo che è poi un mondo parallelo, direi. Avevo questo bisogno, naturalmente sempre anche per motivi autobiografici, però non sto lì a raccontare perché l'autobiografia secondo me è una cosa molto privata ed è forse il carburante del lavoro artistico, è meglio tenerselo per sé. Com'è stata la scelta dell'interprete e il lavoro con lei? Linda Ozansky è un'attrice che conosco da tempo, abbiamo già fatto 3 altri film e un corto, l'apprezzo tantissimo, trovo che sia un'attrice formidabile e sapevo che lei era interessata di interpretare Charlotte perché ha anche collaborato alla sceneggiatura, lei ha una certa affinità per gente che vive così, con un disagio psichico e che vive anche al margine di questa società. A proposito di sceneggiatura, su quali elementi ti sei voluto focalizzare? Sul fatto che questa Charlotte all'inizio è praticamente una prigioniera controllata e umiliata dal proprio padre, come purtroppo spesso succede, che all'interno della famiglia c'è poca comprensione, e poi invece con l'arrivo del fratello che le propone di andare in Svizzera, di fare un viaggio, lei per la prima volta scopre il mondo al di fuori del Trentino dove lei ha sempre vissuto con il padre. Io volevo focalizzare su questo viaggio, su questa scoperta. Lei di se stessa dice: non so come funziona la vita, lo devo ancora imparare, ma non so come si impara. Mi sembra una dimensione esistenziale di chi è perso in questo mondo, però lei comunque poi qualcosa impara perché alla fine riesce a imporsi. Il titolo com'è venuto? Umanamente loro parliamo. parliamo di loro, queste persone che hanno un disagio mentale, sono anche loro persone umane con i loro desideri, con le loro angosce, e Charlotte alla fine è una di noi, cioè basta fare lo sforzo di accettarla per com'è e di entrare fino a un certo punto nel suo mondo senza riuscire a capire tutto, perché non è possibile, la schizofrenia non è una cosa che si riesce a capire o a trovare anche una medicina che possa risolvere il disagio, rimane una cosa abbastanza enigmatica e forse ecco, quello che possiamo riuscire è a livello intuitivo avvicinarci umanamente a queste persone, ed è il film che cerca anche di permettere questo lavoro, perché alla fine è un lavoro, è un impegno. Che tipo di distribuzione avete pensato? La distribuzione di questo film passa attraverso il coproduttore italiano e lo scrittorio, e mi sembra che stanno facendo un buon lavoro, perché sono riusciti anche a coinvolgere le organizzazioni che si occupano di queste persone, di questi disagi. Abbiamo delle prime in diverse città che noi seguiremo, Linda e io, per avere anche un incontro con il pubblico. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Beh, lo danno a Roma, al Cinema delle Province, giovedì 3 aprile alle 20:30. Poi martedì 8 aprile lo danno a Torino, il giorno dopo a Bologna, poi a Poggibonsi e venerdì 11 aprile a Firenze. Io vengo a sapere dove vorrebbero la mia presenza e naturalmente ci vado, perché voglio difendere questo film, che mi sembra un film importante. Il film Charlotte, una di noi, al cinema da venerdì 28 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Rolando Colla. Alla prossima! Grazie per aiutare il film, grazie. Alla prossima, buona giornata. Ciao Federico. Con Fabio Morgan, regista del cortometraggio Sono apparso alla Madonna, in tour dal 2 al 30 aprile 2025, ben trovato. Buonasera a tutti, ben trovati. Cos'è questo lavoro? Finalmente ho avuto la fortuna di farmi questo regalo e dopo tanti anni ho omaggiato il mio maestro. Questo è un omaggio poetico a Carmelo Bene. Ma a differenza di quello che spesso si vede in giro su Carmelo Bene, essendo che Carmelo Bene è diventato una chiesa più che un autore, non è beniano, anzi, ma viene trattato come un autore, e come un autore è stato contestualizzato, si è fatto un lavoro sopra di ricostruzione. Tu come lo presenteresti questo cortometraggio? È un omaggio poetico all'infanzia di Carmelo Bene. Il cortometraggio è completamente girato in 8 mm, proprio per restituire questa idea che sta alla base, ossia come se fossero state ritrovate le bobine dell'infanzia di Carmelo Bene nel suo sud dei Santi, cioè il Campi Salentina sostanzialmente, dove lui è nato. E queste bobine ci fanno vedere un Carmelo Bene piccolo, un piccolo Pinocchio, davanti ai cui occhi appaiono quelli che saranno poi le sue iperbole simboliche, archetipiche, di personaggi che affolleranno il suo teatro, la sua letteratura, la sua poesia. Come nasce quest'idea, questo progetto? Volevo appunto creare un omaggio poetico che non fosse didascalico, che non fosse con il linguaggio di Bene, ma anche nel gioco, nell'ironia, insomma, in questa sempre alternanza tra sacro e profondamente laico, tra ridicolo e iconico, che rappresenta un po' tutto il lavoro che ha fatto Bene nel teatro, ma non solo. E volevo ricostruire questa infanzia dove si spiegava anche in modo simbolico, aneddotico, tramite la storia appunto di un bambino, perché Carmelo Bene forse è apparso alla Madonna. Come hai trovato e come hai lavorato con le tue figure? Per me era fondamentale andare giù, proprio nel borgo natio di Carmelo Bene. Quindi abbiamo girato tutto a Campi Salentina. Gli attori, tra cui il protagonista straordinario, Pierluca Poso, che ha quegli occhi che in qualche modo richiamano quello sguardo di Bene, e sono tutti interamente del paese di Carmelo Bene. Quindi abbiamo lavorato giù, abbiamo trovato le figure e poi abbiamo incontrato di fatto davanti ai nostri occhi quello che sono gli immaginari di Carmelo Bene, di Nostra Signora di Turchi, piuttosto che appunto Gli sono apparso la Madonna, che ricordo il titolo che è tratto dalla autobiografia di Carmelo Bene, oppure tutti i simboli che costituivano un po' l'immagine, un po' da sacra rappresentazione anche in qualche modo, che l'hanno riguardato, che lui ha sempre affrontato in maniera iconoclasta, ma che noi abbiamo affrontato invece in maniera originaria. Cosa hai amato dell'arte di Bene? Lo sberleffo, o la capacità di addentare, di proprio saltare al giocolare dei classici, e questa più che ironia, che purtroppo io penso che sia la malattia del secolo, questa estrema comicità, insomma, questa inadeguatezza anche a essere un attore. Che percorso hai pensato per questo tuo lavoro? Questo tour avviene grazie a un bando che abbiamo vinto di distribuzione della Regione Lazio con Lazio Crea, e quindi attraverso questo bando riusciamo adesso a portarlo un po' di città. E ripeto, diciamo, al di là del valore, che penso che comunque sia quantomeno un valore, diciamo, amoroso che io ho con questo personaggio, quindi traspare, in questo caso è proprio il caso di dire, dalla pellicola, perché in pellicola l'abbiamo girato questo amore, penso che sia anche una piccola perla, perché su Carmelo Bene di fatto non si può fare niente, perché la depositaria, insomma, dei diritti di Bene, la moglie Raffaella Baracchi, concede molto molto poco, giustamente per me, l'utilizzo del suo materiale. Quindi noi, siccome non abbiamo usato l'immaginario di Carmelo Bene, ma nessun materiale proprio di Carmelo Bene, abbiamo creato qualcosa, penso, un po' di unico. L'unico, penso, cortometraggio sulla vita di Bene che si possa fare adesso. Perché immaginario? Perché la frase da cui siamo partiti è una frase che caratterizza, insomma, la sua poetica: ogni vita è una vita immaginaria. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? www.sprixstarstudio.it, che è la casa di distribuzione. O mi dicono dalla regia qui i canali social, che non so che cosa significano, però insomma lo ripeto. Il cortometraggio Sono apparso alla Madonna, in tour dal 2 al 30 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Morgan. Alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a voi. Con Emanuele Gaetano Forte del collettivo Mumble Group per presentare il film Di Noi Quattro, in tour da lunedì 31 marzo 2025. Ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie dell'invito. Raccontiamo l'esperienza Mumble Group. Mumble Group è un gruppo creativo composto da me, da Giulia Rupi e da Giovanni Ansaldo, che sono due attori e scrittori sceneggiatori. Noi ci conosciamo da molto tempo tramite un altro attore, un amico in comune che si chiama Elio D'Alessandro, e 4 anni fa mi hanno sottoposto un soggetto che avevano scritto di questo film, che è appunto Di Noi Quattro, chiedendomi che me ne pareva. Una sceneggiatura mi hanno sottoposto e a me mi sembrò subito un'idea brillante, molto interessante, quindi abbiamo iniziato a collaborare insieme per finalizzare la scrittura del film, e poi abbiamo iniziato a cercare dei finanziamenti che non abbiamo trovato in un primo momento, e questo ci ha portato a decidere di autoprodurci il film, che è già in sala. Come era nato tutto? Da una telefonata che avevano fatto Giovanni e Giulia con un amico, in cui siamo tutti più o meno coetanei, abbiamo tutti intorno ai 35 anni, in questo momento della nostra vita il tema genitorialità è un tema che è molto presente in molti di noi, soprattutto noi che facciamo un mestiere artistico lo sentiamo forse in una maniera un po' più pressante rispetto alla precarietà economica, anche a tante altre persone sicuramente. E quindi, parlando di questa cosa, gli è venuta in mente un'idea innovativa per dar seguito, per soddisfare questo desiderio di genitorialità, dicendosi: bisogna ripensare la famiglia, e in quel caso questo desiderio potrebbe diventare realtà. Quindi il film è partito da questo. Non spoilerò qual è l'idea diversa, strana, innovativa che hanno i personaggi, però da lì è iniziata a partire la scrittura. Come avete pensato la messa in scena? Abbiamo scritto un film che era 4 attori e una location, proprio perché volevamo creare un film che fosse il più facile possibile da produrre, con un'idea molto chiara, che era: se la sceneggiatura è buona e gli attori sono bravi, il film sarà un bel film. Quindi tutto il lavoro di messa in scena è stato un lavoro in cui ci siamo concentrati sul dare ai 4 attori la possibilità di essere il più liberi e esprimere al meglio la loro potenzialità di attori, perché spesso invece quello che succede al cinema è che, essendo una macchina così complessa anche tecnicamente, l'attore diventa un po' l'ultima pedina di tutta la macchina, appunto, e quindi le sue esigenze e la sua arte vengono messe spesso in secondo piano rispetto a tanti altri aspetti che in alcuni casi sono anche semplicemente molto tecnici, tipo un film non si gira mai dall'inizio alla fine, dalla prima scena all'ultima, per questioni di location, di organizzazione. Invece nel nostro caso abbiamo detto: no, dal momento che siamo assolutamente indipendenti, non dobbiamo rispondere a delle logiche produttive tradizionali, nel senso, tra virgolette, facciamo delle cose che non si fanno di solito, e quindi abbiamo impostato il lavoro proprio per andare incontro a una verosimiglianza che fosse il più profondo possibile, quindi abbiamo girato tutto in maniera cronologica e abbiamo girato ogni scena senza stop, cioè davamo lo stop soltanto alla fine della scena, ispirandoci un pochettino al metodo di Cassavetes, e quindi è stato il dispositivo sul quale si costruisce il film, è stato un po' questo. Com'è stata la scelta e il lavoro con attori ed attrici? Il lavoro è stato meraviglioso anche perché ci conoscevamo già con loro, con i quattro attori, ed erano già un gruppo di amici molto affiatati e degli attori straordinari. Quindi il lavoro è stato proprio un lavoro nel quale abbiamo tutti quanti investito sul fatto che l'idea è che loro quattro fossero già una famiglia dall'inizio e questa cosa bisognava che trasparisse. E quindi c'è stato davvero un lavoro creativo insieme agli attori, non solo anche a livello di improvvisazione in alcuni casi, di riscrittura di alcune battute. E questa cosa ti ha dato una veridicità e una vita al film che secondo me è una delle cose che mi piace di più di questo film. Quindi è stato un lavoro molto partecipato e molto orizzontale. Molto poco dirigistico dal punto di vista del regista che dice come vanno fatte le cose, qual è la direzione, è stato un lavoro molto collettivo. Rispetto alla precarietà e alla genitorialità, su quali elementi avete voluto concentrarvi? L'idea di partenza è che comunque viviamo in un momento storico in cui buona parte delle condizioni economiche, del modello di società che ci è stato tramandato alle generazioni precedenti, stanno venendo alla luce tutti quanti i limiti di questa modalità tradizionale in cui bisogna costruire una vita, una carriera, e siamo una generazione che forse più di altre si sta mettendo in discussione rispetto alla possibilità di dover ripensare tante cose. Quindi diciamo che il tema fondamentale del film è stato quello del provare a instillare e a rendere plausibile la possibilità di pensare le cose, di fare le cose in una maniera completamente diversa, in primis a partire dalla genitorialità, perché diciamo che la famiglia tradizionale non è di per sé garanzia di alcun tipo di serenità, non perché tu vieni da una famiglia tradizionale allora sarai una persona tranquilla, serena e tutto quanto. Quindi dato che le cose ibride diverse esistono da sempre, perché non pensare le cose in una maniera nuova? Che è stato poi quello che abbiamo dovuto fare col film, nel senso che noi abbiamo cercato un produttore che abbiamo trovato e che poi a un certo punto ci ha abbandonati, e in quel momento ci siamo resi conto che c'era una specularità veramente molto profonda tra noi e i personaggi del film, nel senso che loro vogliono avere un bambino e non possono permetterselo, e quindi devono trovare una maniera alternativa di soddisfare questo desiderio. Così come noi volevamo fare un film, non potevamo permettercelo e siamo stati costretti a inventare una maniera diversa di riuscire a dar vita al film. Quindi il film è diventato il figlio a un certo punto. Che distribuzione avete pensato con questo tour? Con lo scrittoio, una distribuzione di Milano che ha visto il film e se n'è innamorata, abbiamo pensato anche in questo caso di provare a fare un discorso un po' diverso rispetto a una distribuzione tradizionale che esce in tot sale, nelle quali un film può anche perdersi. Un film così piccolo, così indipendente, così diverso, tra virgolette, aveva bisogno di un percorso in sala che fosse diverso. Quindi abbiamo pensato a un roadshow, quindi di accompagnare il film come se fosse una specie di tournée teatrale, in cui ad ogni proiezione noi del cast, se riusciamo andiamo tutti o comunque alcuni membri del cast, sono presenti proprio per poter accompagnare questo film figlio, tra virgolette, a muovere i primi passi. E quindi è una maniera un po', appunto, un po' diversa rispetto a quella che si fa di solito. Ci sono dei riferimenti internet per sapere dove andare a vederlo? Si possono seguire la pagina del film, che si chiama Di Noi Quattro, su Instagram, oppure ovviamente andare sul sito o sulla pagina Instagram dello scrittoio. Saremo il 7 al Troisi alle 19 e saremo l'8 a Grottaferrata, al Fellini. Il film Di Noi Quattro, in tour da lunedì 31 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Emanuele Gaetano Forte del collettivo Mumble Group. Alla prossima! Grazie mille, grazie mille. Con Carlotta De Santis dell'Associazione Cinema per presentare la giornata Un Dam Dau fa primavera. A Vetralla sabato 5 aprile 2025, ben trovata. Salve a tutti e a tutte. Partiamo dall'associazione, ci parli dell'attività? L'Associazione Cinema è stata fondata da un gruppo di ragazzi e ragazze lo scorso anno per riaprire il cinema moderno di Vetralla, che risale al 1930 e che per il paese e per i paesi limitrofi è stato un centro importantissimo di vivacità culturale, di socialità, di cultura. È stato chiuso negli anni 80 come cinema, ha continuato la sua attività con vari spettacoli per i 10 anni successivi fino a una chiusura definitiva negli anni 90. Il fatto che il cinema sia uno spazio così grande e uno spazio così importante sia chiuso, abbandonato, ci ha fatto riflettere sul fatto che sarebbe stata un'avventura e un'idea molto importante pensare di riaprirlo. L'associazione cinema sta pensando di riaprire il Dexia Cinema Moderno, che noi chiamiamo Dandao, per questo la festa si chiama un Dandao a primavera, non solamente come cinema ma come centro polivalente che ospiterebbe numerose realtà territoriali e garantirebbe tutta una serie di attività e di vivacità culturale non solo relegate alle proiezioni ma con uno spettro molto più ampio e adatto a varie generazioni. Come nasce la giornata dedicata alla riapertura? Nasce da una necessità di comunicazione con il paese e di collaborazione con tutta una serie di persone che stanno seguendo in qualche modo il processo del cinema, ma che finché siamo pronti per la riapertura deve essere in qualche modo aggiornata sui processi che stiamo portando avanti. Il coinvolgimento con il paese ci ha fatto pensare a organizzare una giornata che un po' desse un segnale delle cose che stanno procedendo internamente all'associazione e un po' cominciasse a coinvolgere tutta una serie di realtà locali, tra cui l'artigianato, tra cui le persone che fanno musica, che fanno cultura sul territorio e che potessero insieme a noi organizzare un piccolo festival dove l'elemento centrale è appunto il cinema. Quindi abbiamo pensato di organizzare una cosa del genere per dare continuità ad un processo che noi internamente stiamo facendo, ma che ha sempre bisogno di una collaborazione e di sostegno da parte di tutti. Probabilmente principale è quello di costruire un centro e costruirlo insieme. Qual è la controparte? Il cinema è di proprietà privata di una persona che fa parte dell'associazione. Noi stiamo elaborando tutta una serie di strategie burocratiche affinché il cinema sia ad usufrutto e sia di coinvolgimento proprietario anche delle persone che stanno facendo parte dell'associazione e dell'associazione stessa. Ecco, il nostro obiettivo è quello di far diventare l'associazione parte della proprietà del cinema stesso per elaborarle insieme come struttura di riapertura. Come si articolerà la giornata del 5? Inizierà alle 15:30, durerà fino a mezzanotte, è una giornata che si localizza di fronte all'ex cinema proprio per dare senso di continuità con lo spazio stesso. Il cinema sarà aperto, quindi visitabile a livello transitorio, quindi si entrerà all'interno del cinema che normalmente è chiuso e ci saranno delle installazioni sonore all'interno. Le altre attività si svolgeranno di fronte al cinema stesso e dalle 15:30 in poi si susseguiranno con tutta una sorta di proposte sia per i bambini a livello pomeridiano che per adulti e ragazzi fino alla chiusura musicale verso sera. Le attività comprendono principalmente spettacoli da parte di clown e artisti di strada, comprendono risse e aste con prodotti locali e oggetti collegati al cinema stesso, concerti e DJ set con offerta di cibo e di vino o comunque di bevande e allo stesso tempo con accompagnamento di musica, eccetera. Tutto questo viene fatto per coinvolgere fasce diverse del paese e dei dintorni e per cominciare a risvegliare l'interesse di quello che può essere poi successivamente il cinema quando sarà riaperto, con una guarda dai bambini a persone più grandi, senza dimenticare i ragazzi. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? C'è la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram al nome Cinema Dandao. La giornata Un Dandao fa primavera a Vetralla, sabato 5 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Carlotta De Santis dell'Associazione Cinema. Alla prossima! Grazie a voi, grazie a voi. Con Antonio Termenini, direttore artistico della 22esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma, Cinema Farnese dall'8 al 16 aprile 2025. Ben trovato! Grazie Federico, ben trovato. Presentiamolo, cos'è? 22esima edizione di un appuntamento che oramai è fisso e che porta sempre il miglior cinema dell'Estremo Oriente qui a Roma, al Cinema Farnese, con quest'anno 19 film in concorso, 10 nella sezione newcomers che è quella dedicata agli esordi e comunque alle opere prime o seconde e con altri film fuori concorso. In più abbiamo una sezione cortometraggi che è un po' più organica e più razionale rispetto agli scorsi anni, con una giuria studenti della RUFA che assegnerà il premio, la menzione al miglior cortometraggio. Com'è stata la scelta dei titoli? I criteri sono un po' sempre gli stessi, quindi quello di cercare di unire un cinema d'autore, ma soprattutto il cinema dei registi che ci piacciono, che amiamo, che abbiamo seguito in questi 20 anni, che in alcuni casi sono diventati grandi maestri come Kore-eda, di cui abbiamo proiettato tutti i film. E quindi, non so, ritroviamo i film di Chan Soo-chi, di Aung San-soo, di Chung Mon-oh, di altri registi, insomma, molto, molto conosciuti, assieme invece ad una ricerca di film un po' più di ricerca, comunque meno noti, che però possono essere delle sorprese molto importanti. È prevista anche la presenza di autori e autrici? Sì, avremo il regista indonesiano, anche perché quest'anno per la prima volta all'interno delle giornate dedicate ai paesi, che sono appunto Thailandia, Corea del Sud, Giappone, Vietnam, e inauguriamo una collaborazione molto importante con l'Indonesia, e ci sarà il regista di Tale of the Land, che è uno dei film sicuramente più belli, Luendra Kumara, che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Busan, che sarà con noi. Avremo poi il produttore Panuare, thailandese, che è produttore di film di genere, in questo caso ci porta un bellissimo film che è Doi Boy, che è un film veramente molto particolare, e invece un altro film di genere che è Tekol Genesis, è un film fantasy. E poi avremo uno dei produttori più importanti della nuova generazione, perché è capace di mettere assieme molti paesi dell'area, ma anche produttori francesi o comunque europei, che è Jeremy Chua, che è produttore in questo caso di due film che sono Pierce e Ma Cry Silence, che ci parla di Myanmar, in questo caso insomma un tema di grande attualità non solo per il terremoto ma per la presenza della giunta militare, insomma per l'evoluzione che il paese ha avuto. Jeremy Chua è anche direttore del Singapore International Film Festival, che è un festival molto importante che ha avuto un momento di crisi e che lui sta rilanciando. Quali sono gli elementi di continuità e quelli di cambiamento rispetto al festival? Direi più elementi di continuità, nel senso che appunto la continuità negli ultimi anni è data appunto dalle giornate dedicate ai paesi, che sono un momento per conoscere meglio questi paesi, non soltanto da un punto di vista cinematografico, ma anche culturale, turistico, commerciale, da tanti tanti punti di vista. Ed è per questo che abbiamo allargato anche all'Indonesia, e speriamo di poter allargare anche forse a un altro paese per il prossimo anno. E la discontinuità è una delle novità, sicuramente i cortometraggi, quindi in tutti questi anni, un po' perché crediamo che i cortometraggi abbiano la loro specificità e quindi ci sia un po' un pubblico per i cortometraggi come per i documentari, però in questo caso, visto che in particolare da alcuni paesi, Filippine, Singapore, la qualità dei cortometraggi è molto molto alta, abbiamo pensato ad una sezione autonoma dove ci sono 8 cortometraggi e dove c'è una giuria di studenti che assegna un premio, una menzione al miglior cortometraggio. I riferimenti web per il programma? Sul sito internet www.asianfilmfestival.info e la pagina Facebook, che è quella di Asian Film Festival, e anche Asian Film Festival, che è l'account Instagram. 22esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma al Cinema Farnese dall'8 al 16 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Termenini. Alla prossima! Grazie, grazie a te, grazie. Con Steve Della Casa del Centro Sperimentale di Cinematografia per presentare il festival Custodi di Sogni, i tesori della Cineteca Nazionale a Roma dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Ben trovato. Grazie, grazie per l'invito. Cos'è questo nuovo progetto? È un festival che vuole mostrare le cose che la Cineteca Nazionale ha. La Cineteca Nazionale dal 1949 per legge ha una copia di tutti i film girati in Italia, ma poi ha molto di più, a documenti vari, ai saggi di regia, a dei fondi che ha acquisito, eccetera eccetera, e quindi vogliamo mettere in bella mostra tutto questo e al tempo stesso far vedere che la Cineteca Nazionale è un posto che vuole essere amichevole nei confronti di chi, studente, studioso, curioso o anche semplice appassionato voglia approfondire qualche tema sul nostro terreno di intervento. Quindi faremo vedere dei film che abbiamo restaurato nella scorsa stagione. Uno di questi ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, Dece Bombo di Nanni Moretti, ma poi c'è anche Sei donne per l'assassino di Mario Bava, che sarà presentato da Dario Argento. Moretti presenterà il suo restauro di Dece Bombo. Poi c'è La visita di Pietrangeli, che è un omaggio a Sandra Milo. C'è La notte di Antonioni, che è un omaggio a Mastroianni, a Monica Vitti. Insomma, i film insomma, che hanno circolato. Ma forse l'aspetto più interessante sono i film che hanno circolato meno o poco. Per esempio, la manifestazione si svolge di giorno al centro sperimentale, in via Tuscolana 1520, ma la sera si svolge a Scena, che era il vecchio film studio, in via Orti da Liber a Trastevere. Beh, la sera è dedicata sempre al cinema sperimentale. Noi abbiamo una grande videoteca di film sperimentali girati negli anni 60 e faremo vedere proprio questi lavori, raggruppandoli per centri di interesse. Il primo giorno, lunedì, ci sarà un omaggio a Claudio Caligari, che come sappiamo è il regista di Non essere cattivo, del quale abbiamo restaurato il primo film che ha fatto, che nessuno ha visto, che si chiama La parte bassa, racconta il movimento del 77 a Milano, i circoli del proletariato giovanile e così via. E poi negli altri giorni ci saranno altri argomenti del genere, per esempio c'è una serata interamente dedicata al collettivo cinematografico femminista romano, che con Ronny Daopolo, Annabella Miscuglio e così via ha fatto esperimenti cinematografici interessanti negli anni 70. E insomma è un programma che trovate sul sito del Centro Sperimentale, è ingresso gratuito e quindi durante la settimana potete venire a trovarci lì. Sabato e la domenica invece con i grandi restauri saremo alla Casa del Cinema, anche lì sarà ingresso libero, anche lì ci sarà forse un maggior afflusso, quindi o prenotate oppure procurate di arrivare molto presto. Insomma, credo che sarà un'occasione per stare insieme, per parlare di cinema e per capire che sul cinema tutti noi che pensiamo di saperne tanto in realtà ne sappiamo poco, perché l'arte del Novecento insomma ha avuto mille ramificazioni, mille maniere di essere interpretata ed è molto bello, divertente, utile, interessante, istruttivo vederli tutti insieme uno dopo l'altro. Nel complesso quanti sono i titoli presentati e com'è stata la scelta? Abbiamo lavorato, come dicevo, su dei criteri un po', diciamo, apparentemente antinomici, cioè abbiamo cercato sia dei film di grande impatto popolare, appunto Dece Bombo sarà sicuramente un grande successo, ma credo anche Sei donne per l'assassino, che è il proto thriller all'italiana, un film secondo me straordinario, il restauro è venuto molto bene perché è un film che conta molto sui colori e lì i colori sono stati valorizzati al giusto. E questo è un aspetto. L'altro aspetto invece delle cose rare mai viste, un'altra cosa di cui sono molto orgoglioso è che abbiamo trovato tutte le scene che la censura aveva tagliato nei film di Marco Ferreri. Marco Ferreri è uno dei registi italiani insieme con Pasolini che maggiormente ha dovuto sopportare gli strali della censura e sarà molto bello vederli tutti insieme per rendersi conto anche di questo fenomeno, di cosa è successo. Il Festival Custodi di Sogni, i tesori della Cineteca Nazionale a Roma dal 31 marzo al 6 aprile 2025. Un saluto e un ringraziamento a Steve Della Casa del Centro Sperimentale di Cinematografia. Alla prossima! Grazie a voi, ciao! Con Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrome per presentare la rassegna di fantascienza Kinodrome. A Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino dal 27 marzo al 24 aprile 2025. Ben trovato! Ciao, ciao, ciao a tutte e tutti coloro che ci ascoltano. Presentiamo questa rassegna, di cosa si tratta? Più generale, all'interno di una serie di rassegne che Cinemaforte propone periodicamente, la trasmissione Boca Chica Cosmodrome è una trasmissione che viene fatta in diretta a Radio Forte e che parla di capitalismo spaziale al proprio interno, quindi diciamo di evoluzione del modo di produzione capitalistico che inizia a guardare anche alle risorse dello spazio extraterrestre. Ecco, all'interno di questo contesto noi utilizziamo naturalmente molta fantascienza nelle nostre analisi e di conseguenza è venuto naturale pensare ad un ciclo, una piccola rassegna di quattro film di fantascienza un po' sperduti, un po' poco noti, un po' poco conosciuti, non proprio mainstream, che presentano temi interessanti. Com'è stata la scelta dei titoli? Come dicevo, da un certo punto di vista ci siamo orientati su titoli che non sono così trovabili o comunque così noti. Per dire, il 27 marzo proietteremo La vita futura, un film inglese del 36, che in realtà è la risposta a Metropolis, però rispetto a questo è assolutamente più sconosciuto. È un film che inverte esattamente questo, il vettore che da Metropolis spinge il proletariato dal basso, quindi le classi subalterne, verso una riscossa contro le classi privilegiate. Qui nella Vita futura invece c'è un ribaltamento molto interessante, fantascientifico, utilizzando scenari e prospettive tipicamente machine age e streamline, quindi un film molto molto particolare, tra l'altro girato proprio tra le due guerre, quindi in sentore dell'inizio della seconda guerra mondiale, però ancora guidato dall'ottimismo che, avendo superato la prima, il mondo non sarebbe mai più ricaduto in una guerra mondiale. Nulla di più sbagliato, ovviamente. Poi abbiamo Criminali della Galassia, che è un film italiano del 65, Anthony Dawson al secolo Antonio Margheriti, bellissimo film, forse meno ispirato del primo dal punto di vista politico, dal punto di vista della riflessione, ma un capolavoro della cinematografia, anche spaghetti western intergalattico nostrano, in cui verranno ripresi poi tutta una serie di temi che vengono sviluppati dalla fantascienza italiana, molto poco nota, di cui Anthony Dawson appunto è sicuramente uno dei protagonisti insieme a Bava principali. L'invenzione di Morel è il terzo film, Emidio Greco, un film assolutamente che conoscono in pochissimi, distopico, ma distopico diciamo utopico, nel senso che è una distopia utilizzata in modo rigenerativo e in modo critico. Io sono sempre contro le distopie, sono più per le utopie da questo punto di vista, quindi non avrei mai scelto insieme ai compagni con cui ho fatto questa cosa un film semplicemente distopico. Film appunto del 74, assolutamente sconosciuto. E poi ultimo, il capolavoro sovietico dell'81, Per Aspera d'Astra, che è un film, va bene, come dire, eccezionale, bellissimo, con quelle lentezze e con quelle maestrie, capacità di utilizzare le luci tipicamente russo-sovietiche, di un regista, Viktorov, che in realtà è una sorta di fratello minore di Tarkovsky, ma assolutamente ignoto ai più. Il film Per Aspera d'Astra ultimamente è stato riscoperto, dopo essere stato assolutamente ignorato per decenni in quanto film sovietico e in quanto portatore, da questo punto di vista, anche di un'estetica forse un po' poco immediatamente digeribile e comprensibile per questa parte dell'Occidente, ma un film eccezionale da questo punto di vista. Dal 1936 al 1981, un cinquantennio di fantascienza. E cosa ne è della fantascienza 50 anni dopo, oggi? Da sempre ognuno rivendica il cadavere della fantascienza. Il cadavere della fantascienza è stato rivendicato anche all'inizio, quando la fantascienza ancora non esisteva, ma esisteva il racconto d'avventura, che insomma in qualche modo lo preannuncia. Beh, oggi il compito della fantascienza, dal mio punto di vista, ma anche dal punto di vista della trasmissione Boca Chica Cosmodrome, è quello di una riscoperta, di un'analisi, prefigurazione politica, secondo me, e soprattutto di capacità e di stradamento verso la costruzione di alternative. Io sono sempre molto sorpreso quando incontro, conosco sedicenti rivoluzionari che però non amano la fantascienza. Ecco, la fantascienza è assolutamente uno spirito libero, anche quella più reazionaria, uno spirito libero capace di mettere in discussione il presente, lo status quo, quindi un arnese essenziale nella cassetta degli attrezzi di chi vuole un mondo diverso. Quindi ecco, da questo punto di vista, una forza ineguagliabile. Certo, vive, ha vissuto certi momenti un po' alluppati, no? Come dire, un po' chiusi su se stessi. Attualmente, ad esempio, cinematograficamente esiste pochissima bella fantascienza, ma questo non è un problema della fantascienza, è un problema delle idee che vengono messe in campo. Ovviamente più la censura e più lo status quo si fanno impellenti e pervasivi, più la fantascienza da questo punto di vista ne soffre, e per trovare della buona fantascienza bisogna andare a scavare nelle nicchie. Come si svolgeranno le proiezioni? Con un'apertura e una chiusura? È prevista sicuramente un cappello di introduzione, per esempio sulla Vita futura si parlerà intanto del racconto di Wells da cui il film è tratto, soprattutto del periodo storico, dell'attualità politica del film, e come annunciavo prima anche del machine age, dello stile streamline, che sono elementi che a noi hanno interessato molto in questo film e che non saranno oggetto di dibattito, però almeno di segnalazione. Ecco, ci piacerebbe segnalare quali sono gli elementi che secondo noi sono stati importanti in questo film, che sono in questo film in particolare, nel primo, sono questi tre elementi. Quindi credo che ogni film avrà questo cappello introduttivo in cui segnaleremo gli elementi secondo noi da tenere d'occhio nel film nello specifico. Poi non so se ci sarà, non credo, non è previsto, ma insomma se poi ci sarà un naturale spontaneo dibattitone alla fine, ma non penso proprio, ecco, insomma. La scelta che abbiamo voluto fare è anche quella di film comunque che parlino, che comunque diano una serie di suggestioni non così pesanti. I riferimenti web per il programma? Su fortepredestino.net troverete anche tra l'altro le puntate andate in onda di Boca Chica Cosmodrome e tutti coloro che si vogliono interessare alle prospettive di sviluppo critico del sistema di produzione capitalistico. La rassegna di fantascienza Kinodrome a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il giovedì dal 27 marzo al 24 aprile 2025 con 4 appuntamenti. Un saluto e un ringraziamento a Cobol della trasmissione Boca Chica Cosmodrome. Alla Grazie prossima. A voi. Ciao, a presto, ciao. Con Andrea Paco Mariani di OpenDB Distribuzioni dal Basso per sapere le novità della rete distributiva indipendente. Ben trovato! Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Questo mese abbiamo diverse novità sia nelle sale e nei spazi sociali sia sul nostro catalogo streaming. Anzitutto vi segnalo che come altri film di cui abbiamo avuto modo di raccontare e parlare in questi mesi, l'uscita di marzo di Portuali, del film documentario di Perla Sardelli sulla storia del collettivo Portuali di Genova, continua la sua tournée nelle sale e contemporaneamente negli spazi sociali. Quindi vi invitiamo a intercettare questo film molto importante sia nelle proprie, cioè, nelle proiezioni pubbliche delle proprie città e presto sicuramente anche in streaming su OpenDB. E annunceremo poi anche il mese prossimo la prossima uscita cinematografica di sala, che annunceremo a breve, perché appunto a maggio faremo una nuova uscita. Per quanto riguarda invece il catalogo streaming, come sempre è un catalogo streaming ma con la possibilità di organizzare nelle proprie città e comunità anche delle proiezioni pubbliche, vi segnalo alcune delle opere che abbiamo lanciato questo mese. Una su tutte sicuramente Interdit di Lorenzo Marino, film documentario sulla cultura rave e anche sulle culture rave. Devo dire che da ormai più di un anno e mezzo, quando accogliemmo all'epoca Free di Alessandro Ugo, abbiamo ricevuto diversi lavori molto interessanti che raccontano il mondo delle culture e delle sottoculture rave, e devo dire che in OpenDB oggi ha un piccolo preziosissimo area tematica dedicata sempre nella cornice arte e musica, che è una delle macro categorie del nostro sistema, proprio questo tipo di racconti che evidentemente non solo hanno molto pubblico e molte comunità, perché sono film che vanno sempre molto bene, ma che evidentemente sono figli anche di una fase nuova dove autrici e autori indipendenti sentono l'urgenza di raccontare anche questo tipo di storie. Abbiamo poi altre uscite molto importanti, una su tutte è Tukiza Day, che avevamo già fatto arrivare nelle sale a febbraio e adesso anche in streaming, opera che racconta la storia di due ragazzi palestinesi e della loro vita quotidiana nella West Bank occupata dall'esercito israeliano, ed è un film che ha fatto, il film internazionale che ha fatto un grosso percorso festival e che ovviamente, come potete immaginare, ha avuto anche invece dei grossi problemi in Israele, anche perché va segnalato che l'autore è israeliano, ma è un autore che da molti anni appunto collabora con le comunità palestinesi della West Bank, quindi ha avuto anche diverse ripercussioni a causa, diciamo, di questa, della scelta di questo film. Ma come vedete è un tema abbastanza diffuso ultimamente, visto anche altre storie ben più note alla cronaca di queste settimane. Abbiamo poi pubblicato anche il mediometraggio La legge di Flavia Mastrella, un'opera molto interessante e molto particolare che trae spunto dalla Costituzione italiana, ma non voglio dirvi molto e invitarvi a visionare l'opera, che arricchisce la sezione ormai storica e dedicata del catalogo dedicata a Antonio Resti e a Flavia Mastrella, anche se nello specifico questo film è firmato alla regia solo da Flavia. Avremo anche altre novità interessanti in futuro, sempre sul fronte Resta Mastrella, e sarà per noi un piacere continuare questa collaborazione. Ultime due segnalazioni molto importanti. Uno è che i film Sconosciuti Puri, che presentammo anche in radio l'anno scorso quando uscì nelle sale, è adesso disponibile anche in streaming. È un film davvero potente che vi consiglio di vedere caldamente. E abbiamo poi preso in catalogo dalla produttrice Serena Gramizzi, amica e storica partner di Open DDB, un altro film che è un po' datato, ma è tornato alle cronache per via della vicenda dello sgombero imminente di Mutonia. Mutonia, penso che sappiate più o meno che cos'è, è un'esperienza molto interessante che c'è in Romagna, appunto, un'esperienza anche di comunità costruita appunto dall'esperienza dei mutoidi, dall'esperienza artistica comunitaria dei mutoidi, che adesso è purtroppo a fortissimo rischio di sgombero e imminente. E Hometown Mutonia è un film di circa 8 anni fa, se non ricordo male, che racconta proprio questa esperienza, che è un'esperienza artistica, creativa, ma anche e soprattutto comunitaria. E ci faceva molto piacere accogliere questo film anche per l'urgenza in qualche maniera del tema del momento. Questo è per ora quello che abbiamo proposto sul mese di marzo 25. Come sapete, noi ogni mese usciamo in streaming con 4-6 film nuovi al mese e nelle sale italiane con in media 1-2 film ogni semestre, e continueremo anche nei prossimi mesi, quindi vi invitiamo a guardare tutto questo e molto altro sul nostro catalogo openddb.it. Pago, un abbraccio, alla prossima. A voi, a presto. Con Daniele De Michele in Arte Don Pasta per presentare il suo documentario I Mastri. Ben trovato. Ciao, sempre un piacere. È il terzo di una serie di lavori documentari che hai portato a termine, ce ne parli? I Mastri nacque come idea subito dopo aver chiuso i Villani del 2018, ed era un'investigazione antropologica sui mondi rurali attraverso lo studio del cibo. E quello di cui mi rendevo conto era il fatto che comunque c'era tutto un grande patrimonio di intelligenze collettive che rischiava di scomparire. Mi interessava proprio di vedere questa recalcitranza alla modernità, alla produzione di massa che c'era in queste persone che di fondo facevano cose teoricamente tradizionali del passato, ma che facevano emergere i conflitti nella produzione di massa. Quindi è stato un viaggio che da un lato è un viaggio antropologico e dall'altro è un viaggio politico, per scoprire quali possano essere le resistenze in quest'epoca grigia. Dove ti sei indirizzato? La ricerca è stata lunghissima, quindi ho girato tutta l'Italia per cercare delle figure che poi fossero anche rappresentative di questo mondo, che è un mondo larghissimo. Quindi sono stato a Venezia da un maestro d'ascia, da un giovane senegalese che ha imparato l'arte del vetro a Murano, una giovane liutaia a Napoli, un vecchio costruttore di Damota a Napoli, poi degli alabastrai a Volterra, dei costruttori di padelle in terra cruda come la tradizione millenaria in Romagna, e poi i costruttori della Foggara in Salento. Quindi è proprio una sorta di censimento dell'artigianato nel mondo attuale. Qual è lo stato dell'arte dell'artigianato? L'artigianato, la cosa che mi affascina è che rende libere le persone, cioè questi utilizzano la mano e la utilizzano come forma di intelligenza e come forma di discernimento, cioè di capacità di leggere il mondo. Quindi l'artigianato è quello che è intanto democratico, nel senso che non c'è bisogno di scolarizzazione, si fa nella pratica, cioè è accessibile a chiunque se ne appassioni, e questa cosa la caratterizza in modo forte, diciamo, nei millenni. L'Italia si è fatta bella grazie al lavoro di persone comuni, questa è la cosa che mi appassionava, diciamo, una ricerca che comunque per me, perché una ricerca sia politica, deve essere sulla cultura di massa, e quindi l'artigianato è una cultura di massa. Come si inserisce nel mondo turbocapitalista di oggi? È affascinante perché il conflitto divertente è che loro sono la quintessenza dell'anti-intelligenza artificiale, loro fanno tutto a occhio e non sbagliano mai, quindi c'è questa sorta di dimostrazione pratica che il fatto che comunque l'uomo è capace di fare le cose senza le macchine che schiavizzano a un certo punto. Com'è stato il periodo delle riprese? Lunghissimo, cominciato nel 2014 con le prime riprese, ci sono rientrate poi nel film ed è durato 1000 interruzioni produttive da un lato, il Covid dall'altro, e quindi è stato molto lungo, con una ricerca di cui non ero mai completamente soddisfatto, quindi i protagonisti sono figli di tante prove, diciamo. Quindi è stato molto lungo, sia il filmare che il montare, anche il montaggio è durato 2 anni. Però un po' mi fa ridere perché è proprio lavoro artigianale, nel senso proprio di cesello. Per te che esperienza è stata? Beh, per me è stata fondamentale, intanto perché comunque mi ritrovavo di fronte a un'operazione nuova, nel senso che filmare le persone per così tanto tempo non l'avevo mai fatto, quindi cercare i processi drammaturgici nel tempo è stato un esercizio bello. E togliermi dal mio racconto sul cibo anche, cioè dimostrarmi che il racconto antropologico posso farlo e mi interessa farlo, diciamo, su tutti i campi. Poi una conferma politica e culturale che non si può fare cultura e arte senza il popolo, diciamo, e quindi è la dimostrazione di questo film che si può e si deve, a mio avviso. Hai pensato a una distribuzione? Ci sarà un piccolo tour, il film è della Rai, fa poco, diciamo, in autunno. Ci sarà un piccolo viaggio che faccio adesso, a fine marzo e primi di aprile, passo a Roma il 1° aprile al Farnese, e poi ci sarà dopo Pasqua, dopo il periodo di Pasqua, ci sarà una seconda parte del viaggio. Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più? Sui miei social, su Facebook, sui miei social di Michele, si trova in YouTube e Instagram. Il documentario I Mastri, un saluto e un ringraziamento al regista Daniele De Michele in arte Don Pasta. Alla prossima! Ciao a voi! Con Isabel Russinova, regista del docufilm Eva degli Iris. Ben trovata! Ciao, buongiorno a tutti, eccomi qua. Raccontaci questo nuovo progetto. Eva degli Iris è dedicato a Eva Mameli Calvino, che è la prima botanica italiana, ambientalista, grande scienziata e anche madre del grande scrittore Italo Calvino, e di Floriano Calvino, geologo molto interessante e molto importante del nostro secolo scorso. Eva Mameli Calvino è un personaggio che mi ha molto affascinato per il suo essere donna determinata, intuitiva e anche carica di energia e di fantasia. Non a caso ha passato queste sue peculiarità anche al figlio Italo, che di lei diceva la fata buona che amava gli iris. Quindi ecco, un personaggio molto particolare, nata in Sardegna, un'isola ricca di antiche tradizioni, misteriosa, come in un certo senso lo è stata anche Eva, una donna che aveva moltissimi interessi e grandissime intuizioni, si è molto spesa anche per la divulgazione delle conoscenze legate alla natura e all'ambiente rivolte proprio ai ragazzi, scrivendo dei libri per loro, curando delle pubblicazioni che potessero coinvolgere proprio i ragazzi per la difesa e la conoscenza della natura e anche del mondo degli uccelli. Quindi sono rimasta colpita da questo personaggio, ne ho scritto prima un testo teatrale, poi è diventato un docufilm e ho cercato di coinvolgere diverse istituzioni scientifiche perché potessero raccontare Eva da diverse sfaccettature, quindi la collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma, l'Università di Sassari, l'Orto Botanico di Roma, l'Osservatorio Astronomico, la Società Dante Alighieri d'Italia e anche di Cuba, perché Eva Mameli ha anche avuto un ruolo molto significativo nel fondare l'Estación Experimental a Cuba, dove ha svolto un'attività molto importante sia per quanto riguarda il suo ambito, cioè quello della botanica, dell'ambiente, ma proprio per l'emancipazione dei campesinos e soprattutto del femminile in quel territorio. Come hai deciso di raccontarla? Io in generale amo molto utilizzare tutte le discipline per poter arrivare alla meta, al fine ultimo, quello di raccontare e dare emozione per appunto raccontare un fatto, un personaggio. E quindi anche in questo caso ho mescolato diverse discipline di narrazione: il teatro, il documento, il documentario, le conversazioni con le scienziate che ho coinvolto, l'arte, quindi anche delle tavole che sono diventate come dei fumetti che raccontano, e naturalmente anche proprio parti di fiction, di film, di cinema, dove due attrici hanno interpretato Eva Mameli giovane e Eva Mameli adulta, e sono Macri Martinelli Canaresi e Claudia Portale, e Alessio Caruso invece ha dato voce e anima all'Italo Calvino, che naturalmente non poteva mancare nella narrazione della storia. E ci sono anche dei momenti dove ho utilizzato l'intelligenza artificiale, quindi tutti i mezzi per poter raccontare sia dal punto di vista scientifico che umano questo personaggio, sottolineando anche l'importanza che ha avuto l'aspetto di attivista e anche culturale, letterario in Eva Mameli Calvino. Hai pensato una distribuzione per questo lavoro? In questo momento si stanno completando degli appuntamenti istituzionali. Il docufilm è stato presentato al Senato della Repubblica lo scorso gennaio nella sua anteprima, poi adesso ha questi due appuntamenti molto importanti presso il Teatro Ateneo della Sapienza di Roma, e un altro appuntamento molto importante con un tema interessante che è scienza, cinema e ricerca all'Osservatorio Astronomico di Roma, dove ci sarà la proiezione del film. Si parlerà di Eva Mameli Calvino e il film sarà proprio spunto per una riflessione sulla importanza della scienza e del cinema per raccontare la scienza. Ci sarà anche un intervento interessante di Daniela Rambaldi, figlia del creatore di E.T., che quest'anno festeggia proprio 100 anni dalla nascita del grande maestro, pluripremio Oscar, e con loro le astrofisiche del Centro Astronomico e noi cineaste si discuterà appunto su questa connessione interessante e importante tra cinema e scienza. Il 31 marzo alle 15.30 al Teatro Ateneo della Sapienza e il 3 aprile alle 14.30 invece all'Osservatorio Astronomico. C'è anche un sito internet dedicato al film. Sì, Eva degli Iris, poi naturalmente anche su il sito della Fondazione Mira che ha prodotto il film. Naturalmente poi si possono trovare tutte le info anche presso il sito, in questo caso, dell'Università La Sapienza e dell'Osservatorio Astronomico. Il docufilm Eva degli Iris, un saluto e un ringraziamento alla regista Isabella Russinova. Alla prossima! Grazie infinite, a presto! Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.